torni indietro con il tempo. 20 anni e più son già del vento. Un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu, lo so che ti trascuro un po' e che ti lascio troppo sola per la mia musica che vola. Ma ci sei solo tu e torni indietro con il tempo. 20 anni sono già del vento. C'ho marinaio, c'ho aviere, c'ho compagnia, mangiare e bere. Suona la tromba tra le dita, alzarsi all'alba che fatica. C'ho caporale, un po' coglione, c'ho signor sì, c'ho cavettone. Adesso la mia musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore e nell'anima. Musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore e nell'anima. E torni indietro con il tempo. 16 anni già del vento, ricordo il treno e la stazione, il primo amore, che emozione. La stessa età, la stessa scuola, sei la più bella, sei la sola. Il primo bacio nel portone e poi la mia prima canzone. Adesso la mia musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore e nell'anima. Musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore. Con il tempo, 6 anni sono già del vento e mangio musica e frittelle. Amo la luna, amo le stelle. Mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano. Da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare. Melodia nel cuore.